figa in testa. Quel che so, già lo so, quel che scura sembra più duro, ma sono sicuro, la strada nuova rompe le uova a quella gente che è sofferente, ma non fisicamente, ma di pigrizia della mente. Senza le carte, lì dove andremo è un mondo a parte, è il programmino di Gigi D'Agostino, ma chiudi gli occhi e attento al gradino. Sempre a tempo il programmino. Benvenuti anche quest'oggi, ricomincia la marcia sul mondo. A tempo, spegnete le luci, chiudete le finestre e cominciate a marciare insieme al programmino. Oggi è una giornata un po' strana perché sono arrivato qui e mi sentivo già un po' tutto, cioè, non so, mi è successa qualcosa. È una giornata, sai quelle giornate che ti senti qualcosa ma non sai che cosa. Oggi mi sento strano, un po' confuso, tutto sotto sopra. Oggi mi sento strano, un po' confuso, tutto sotto sopra. Oggi mi sento strano, un po' confuso, tutto sotto sopra. Oggi mi sento strano, un po' confuso, tutto sotto sopra, sopra. Oggi mi sento sopra, un po' confuso, tutto sotto strano. Oggi mi sento sopra, un po' confuso, tutto strano sotto. Oggi mi sopraffuso, un poco strano, tutto sotto sento. Oggi mi sopraffuso, un poco strano, tutto sotto sento sopra. Io mi sento sopra, un po' confuso, tutto sotto confuso. Io mi sento sopra, un po' confuso, tutto confuso sopra. Io mi sento sopra, tutto sopra, tutto confuso, tutto sopra, tutto confuso, tutto sopra. Io mi sento sopra, tutto sopra. Vi siete mai sentiti così? Chissà. Può succedere, eh? Sono quei giorni che ti svegli e non sai esattamente che giorno è, chi sei, ma soprattutto cosa vogliono da te. Soprattutto la faccia della persona che ti viene a svegliare. Vorresti sapere perché? Tutto ti appare chiaro e tu ne eri ignaro. In un istante tutto meno pesante, tutto può cambiare. Basta lasciarsi andare. Musica. Marcia intorno al mondo. È il programmino di Gigi D'Agostino su RIN, Radio RIN, Radio Italia Network. Oh, anche questa settimana sono arrivate tantissime mail, tanti messaggi, tante foto anche, tante mail con le foto che ritraggono il vostro piedino mentre batte il tempo e forma il triangolo. Grazie ragazzi, è fantastico perché supportate perfettamente questo cammino. Questo magico cammino. The city stretches like an elastic band. It grows and contracts here in my hand. Stretch the city to the sky. Put it right up there. Fishing is getting cold. What is fishing? Fishing is getting cold. questo disco ha delle capacità incredibili, mi attraversa e mi stravolge completamente ogni volta. È sempre nuovo, è sempre diverso, è un cammino sempre nuovo, con una luce sempre più accesa. È il programmino di Gigi D'Agostino su Radio Rin. La vostra marcia, la nostra marcia. La vostra marcia, la nostra marcia. Sono arrivate molte mail dove mi viene chiesto: ma che genere fai esattamente? Ma il programmino non fa un genere ben preciso, il programmino non si siede, il programmino forma il triangolo del piede. È una marcia infinita che continua. A proposito di messaggi, vi lascio il numero della messaggeria per chi volesse mandare un SMS con le proprie immaginazioni in rima: 333-6467-662. Posta elettronica gigi@supergigi.com.

immaginazione. Immaginare. Immagina il mondo veramente tutto tondo. Immagina il Papa con i capelli lunghi. Immagina Maurizio Costanzo con i pantaloni corti. Immagina anche qualcosa di più bello. Immagina di ascoltare il programmino di Gigi D'Agostino. Immagina un bel cammino. Attento al gradino. Le vostre immaginazioni in SMS. 333-6467-662. gigi@supergigi.com. Quello che volete, se potete, quando volete, sentito parlare di pace un po' a sproposito alcune volte. E a proposito di ciò, mi è arrivato un bellissimo messaggio, c'è un pensiero, magari non saranno tutti d'accordo, ma il pensiero è il seguente: combattere per la pace è come fottere per la verginità. Sono d'accordissimo. Every time I hear La marcia del programmino marcia sui ritmi, sulle armonie, non si ferma di fronte alle problematiche generate da alcuni popoli che si schierano da una parte o dall'altra parlando di generi. Noi marciamo sulle armonie, sui ritmi, sugli intrecci armonici. Qui nessuno si siede. Aversi mi aiutava, poi ya no tengo amigos por solo hablar de ti. Lo que quiero es hablarte para intentar besarte. Sabemos que como no pueda morir. Quizás pienses que soy tonto, privo y también loco, pero es que en el amor soy muy original. Parole per descrivere questo gruppo di pittori, grandi pittori, grandiosi. Pablo Picasso aveva scritto: la pittura è una professione da cieco. Uno non dipinge ciò che vede, ma ciò che sente.

stato mai. E ti mostrerò le meraviglie del mondo e quando arriverai, e quando arriverai. Immagina un programma che suona musica. Immagina una macchina che si parcheggia da sola. Immagina la tua persona preferita al tuo fianco. Che ti dice sempre e solo la verità. Immagina di ascoltare questo disco. Immagina di chiudere gli occhi. We'll be right back. immagina di entrare in panetteria e di sentire la panettiera che sta parlando di musica insieme alla signora che abita sotto di te. Di provare a intervenire e di sentirti rispondere: zitto tu, che ne sai? Tu non puoi sapere, tu non puoi capire. Immagina che molta gente in questo momento sta immaginando. l'appuntamento del grande viaggio questa notte a Latina, discoteca 24.000 baci, ci sarà tutto il mondo. Un attimo ho immaginato di ascoltare questa canzone, mi ci sono immerso, mi ci sono coricato sopra, ho immaginato di ascoltare questa canzone più volte, ho immaginato di essere insieme alle persone, alla gente. Le mani che si alzano al cielo e tutte insieme creano quei momenti pazzeschi, quegli abbracci, quel tempo violento. programmino non si siede, è il triangolo del piede, è il triangolo del piede, il programmino non si siede. Programmino sgambetta, trotta. I piedi non ci stanno più dentro, siamo invasi dai triangoli. Percorriamo, ma non corriamo, e se sbagli perdoniamo. Solo su questa radio, su queste frequenze, in certi orari, anti-orari, fuori orari, fusi orari. We'll be right back. mettetevi comodi, prendete un album delle fotografie di un periodo che preferite, quello che volete voi, il periodo che vi piace di più, che vi è piaciuto di più, e cominciate a sfogliare. Il programmino vi accompagna nel cammino. Some velvet morning when I'm straight, I'm gonna open up your gate and maybe tell.

ma lui certamente comparirà. Dove c'è un tesoro se lo vorrà, allora lui arriverà. Delegata l'ispettore lo sa, e il tesoro quindi sorveglierà. Ma Lupin allerta sempre lui starà. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Grande artista, aveva scritto a proposito della pubblicità: le anatre depongono le loro uova in silenzio, le galline invece schiamazzano come impazzite. Qual è la conseguenza? Tutto il mondo mangia uova di gallina. Pubblicità, ratata, pubblicità, ratata, pubblicità, taradatata. Grande appuntamento questa notte a Latina, discoteca 24.000 baci. Tutto il mondo sarà lì. Venerdì prossimo appuntamento in Austria, Innsbruck. Sabato 25 ottobre, discoteca Bollwerk, Klagenfurt, sempre in Austria. E poi grande appuntamento venerdì 31 ottobre, discoteca 2 Cigliano, autostrada Torino-Milano, Halloween elettronico, grande appuntamento del grande viaggio. Il programmino di Gigi D'Agostino in discoteca. Un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più. Grazie per aver fatto anche oggi questa marcia insieme a noi, insieme ai suoni, insieme ai ritmi. Il programmino vi vuole bene, lui ci tiene. Silenzio è sempre più forte. È il programmino in silenzio continua il suo cammino. Continuerà anche questa notte al 24.000 baci a Latina. Viaggiatori del tempo saranno tutti lì. A marciare, gridare, saltare, parlare. Abbracciare, baciare. Ascoltare, cantare. Sulla testa. Smettete di ballare. La musica è dentro di voi. Suona dentro di voi. Il programmino replicherà domani le marce, i suoni, i ritmi a tempo, senza tempo. Se c'è bel tempo. Ogni sabato e domenica 14, 16. Ascoltami e credici. ciao ragazzi. Vi lascio al vostro viaggio, al vostro tempo. Vi ricordo ancora i numeri della messaggeria 333-6467-662 oppure mail gigi@supergigi.com. Appuntamento questa sera, discoteca 24.000 baci Latina. Ci vediamo lì. Ci vediamo lì. Ci vediamo lì. Arrivederci.